Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 19 di marzo, buongiorno e bentornati a Liberi Dentro. Io sono sempre Caterina, qui dalla redazione di Eduradio, e con me ci sono Ignazio e Francesco da Montesole. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano dal carcere e dalla città. E Paolo Aleotti, il nostro giornalista che ci racconta bollate in qualche modo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dovete sapere che in carcere si legge. E questa è una cosa molto bella, infatti leggo questo articolo di Olga Bea, Campagna, leggere dentro, live per le biblioteche carcerarie. La leggo da deanotizie.it perché è partito il quarto appuntamento culturale dal titolo Leggere dentro, promosso dall'AIB Campagna nell'ambito di Parole in circolazione, liberiamo la cultura. Praticamente cosa è successo? È stata avviata una convenzione per le biblioteche del polo carcerario della regione Campania. Si tratta di circa 18 istituti penitenziari sparsi sul territorio della regione che saranno al centro di un'azione volta ad attivare spazi di lettura e biblioteche in ogni istituto, laddove si possano anche metterle in rete tra di loro. L'obiettivo è chiaramente quello di cercare, creare forme di reinserimento sociale puntando sulla cultura, sulla formazione dei detenuti e offrendo loro nuovi stimoli e nuove prospettive. La lettura a volte si dà per scontata, sono pochissimi i lettori in Italia, pensate che i lettori forti sono i bambini nell'età delle elementari, però all'interno del carcere si può scoprire, diventa un magari chi non ha mai letto a un certo punto si scopre lettore e si crea un circolo virtuoso come uno strumento cardine per attivare uno spazio di reclusione, percorsi e incontri culturali, occasioni di dialogo e di confronto, momenti di crescita interpersonale e soprattutto riabilitazione sociale. E ora do la parola a te, Ignazio, con le nostre notizie internazionali. Siamo in Egitto, controllo in Egitto, delle nascite. Egitto, un altro diciamo cortile di casa nostra, un altro degli altri alloggetti. Quando penso al Mediterraneo penso sempre alle vecchie cascine, queste cascine di campagna, intorno al cortile ci sono le stanze e la famiglia è comune. Allora questo articolo che viene da Ahram, l'Ahram che è il grande giornale tradizionale dell'Egitto, del Cairo, è un servizio di Gamal Ehsan Eddin, si sta discutendo molto in questo momento in Egitto su un progetto statale di controllo delle nascite per cercare di un po' di contenere lo sviluppo demografico del paese. Voi pensate che si vorrebbe passare, o l'Egitto ogni anno sale di 2,5 milioni di persone, secco. Allora si vorrebbe portare questo aumento solo 400.000 persone, perché il calcolo altrimenti si dice che si passerà dai 100 milioni attuali nel 2030 a 150 milioni. Un quarto della popolazione in Egitto ha meno di 9 anni. Pensate, un paese giovane, e chi è stato, probabilmente Paolo nei suoi viaggi sarà passato, insomma io ho abitato al Cairo, una megalopoli di 24 milioni di persone dove in ogni ora del giorno e della notte c'è almeno 1 milione di auto in strada. E quindi ci si pone il problema, con misure che potremmo dire sono un po' che ci ricordano la Cina per certi versi, bisogna scendere a 2 figli a testi, l'idea è 2 figli basta. E per far questo si vuole spingere le donne a lavorare e quindi aumentare l'impiego femminile e l'istruzione femminile, dicendo che se noi aiutiamo le donne tra i 18 e i 40 anni a fare altre cose piuttosto che stare solo in casa, anche faranno meno figli. Allora, questo ha una sua, diciamo, una sua logica, però dall'altra parte c'è il problema che l'Islam insegna che i figli sono una benedizione di Dio e non si può impedire a Dio di creare le creature che vuole creare. E quindi noi vediamo un caso, un grande paese islamico, ci sono i cristiani, ovviamente ci sono i copti, ma un grande paese islamico che ha le prese con problematiche che sollecitano in modo nuovo la riflessione, ecco, degli stessi musulmani su quali sono le cose più giuste da fare. Questo anche per dire che l'Islam, tanti dei nostri ascoltatori sono musulmani, l'Islam affronta delle nuove sfide e quindi deve dotarsi anche di nuovi strumenti. Ecco, allora, è il momento di chiudere con una musica. Il momento di chiudere. Chiudiamo questa settimana di musica berbera, che a qualcuno viene detto piace moltissimo, altri forse no, abbiamo tentato di farvi sentire delle cose interessanti, con una voce maschile, che è Hamid Shariyet, è nato nel 49, lui è morto nel 2020, è conosciuto come Idir, algerino berbero, era nato come un geologo, poi ha avuto il colpo di fulmine della musica e si è imbarcato nella musica, e il pezzo che ci fa ascoltare, lui ha fatto grandi ricerche sulle radici tradizionali della musica berbera, è un pezzo meraviglioso, ecco purtroppo non possiamo mostrare anche le parole tradotte, che si chiama Sendu. Il Sendu è lo strumento magico che trasforma il latte in panna. È tutto un pezzo dedicato a quest'opera straordinaria della trasformazione del latte in panna e in burro, a Sendu. Sendom, ذافك ردودي ذا ملّه. Sendom, أكنان تشرب وقال. أكنان تشرب وقال. مندوم يغير فقد ثوارش ذبو. نتمني عندو مندو ما يغير فقد ثوارش ذبو ذي ما كنت نتمني ثخصي ذي حزني فسن ذي كما يسعي غض البضنا ولما لظي توسن الحفي الزوزني تشنا مزد غرما السن دو ثخصي ذي وثغرام الهو. E rieccoci sulle note di Hamid Shariyet, il nostro ultimo cantante della settimana. Do la parola sempre a te, Ignazio, con il nostro galateo arabo. Diamo la parola alla Costituzione marocchina e parliamo di libertà personale. Sì, l'articolo 22 esprime un vertice del galateo. Non si può ledere la dignità delle persone. La yajuzu al massi salamati il jasadia wal manawiya di ai shakhs. Quindi non si può ledere l'integrità fisica e morale, psicologica di ogni persona. Ovviamente qua riguarda tutto ciò che concerne l'arresto, per esempio il processo, la detenzione. E dice questo secondo comma è fortissimo. La yajuzu di ahad an yu'amil al ghair tahta aitariya mu'amal al qasiya او لا انسانيه مهينه او حتى بالكرامه الانسانيه. Cioè nessuno deve permettersi di comportarsi con un altro con ogni pretesto in modo duro, disumano, disonorevole, muhina, e che lede la dignità umana. E ancora, in modo per dirla ancora più esplicite, mumarasate tadib bikafati ashkali Yoakab Alei al-Kanun. Ogni forma di tortura viene punita dalla legge. Allora uno può dire, ma queste sono parole, in realtà in Italia, in Marocco, in Tunisia invece si fa tutt'altro. Ma è importantissimo che queste cose siano messe scritte sulla carta, perché uno Stato dice bisogna fare così. Se fai in modo diverso, sappi che vai contro la Costituzione del tuo paese, contro il galateo della tua nazione. Grazie Ignazio, e do sempre la parola a te Paolo per parlarci di bollate e in qualche modo raccontarci, siccome ho parlato all'inizio dell'importanza della lettura, c'è una testimonianza sempre del tuo documentario Sogni dietro le sbarre che mi colpisce, ed è questa frase di Antonio che dice in carcere ho iniziato a leggere, quindi se ci parli un po' di questo, dell'importanza della cultura in carcere e anche a fronte della pandemia, di cosa ha significato in questo momento la didattica a distanza tramite le tecnologie e anche l'insistenza del direttore del carcere sull'importanza di utilizzarle per garantire la didattica per tutti, questo diritto per tutti. Sì, la cultura, la lettura sono davvero dei io direi proprio dei pilastri fondamentali. Tanti detenuti si ritrovano a leggere poesie, ci sono dei corsi di lettura, scrivono poesie, scrivono autobiografie, che è sempre un modo così per rileggere quello che è successo loro, no? E ci sono due giornali fatti dai detenuti. Enrico, che faceva prima il tipografo, ha fondato dentro Bollate una tipografia proprio per poter stampare direttamente questi giornali e i libri che eventualmente scrivono i detenuti. Antonio, tra l'altro, tra le cose che diceva che lui aveva imparato a leggere poesie un po' perché così un amico gli aveva detto ti puoi rimorchiare le ragazze belle che vengono, e un po' anche però diceva si sente non si sente per mantenere vivi i sogni, che è una frase che trovo bellissima, mantenere vivi i sogni. Ecco, vivere tante cose attraverso i libri è qualcosa che si fa in carcere, che è molto importante. È vero anche questa cosa che dicevi adesso, soprattutto durante la pandemia, da una parte si sono rifugiati nella lettura, io mi sono scritto, riusciamo a scriverci attraverso delle email che fanno un giro un po' più largo di quello che facciamo di solito, fanno le nostre, con alcuni detenuti, e una detenuta dalla Colombia mi ha scritto, colombiana, non dalla Colombia, che sta qui, dalla Colombia, mi ha scritto, guarda che voi adesso siete agli arresti domiciliari, noi siamo abituati, dovete fare come noi, dovete prendere le cose belle, dovete leggervi un bel libro, ecco queste cose qui. Però naturalmente c'è stato, soprattutto lì a Bollate, una direzione illuminata che ha portato a far sì che adesso alcuni detenuti, soprattutto quelli che hanno i parenti molto lontani, possano vedersi attraverso video incontri, come facciamo noi con WhatsApp. Sono molto limitati. Questa cosa ha portato ora ad una richiesta e forse anche ad un'offerta, è una idea da parte della direzione di poter estendere questa cosa, di poter far sì che davvero anche l'insegnamento a distanza possa essere qualcosa che per i detenuti diventa una realtà. Questo potrebbe essere, tra le mille cose, spero di non dire un'assurdità, però un lato positivo di questa dannata pandemia che non ci lascia campare e che spero che prima o poi ci restituirà un minimo della normalità che vivevamo, forse addirittura migliorata, appunto, per esempio per il carcere, con la DAD, c'è la Cisco, che è una impresa che sta a fare dei corsi all'interno per la crescita tecnologica delle persone. Io, Paolo, avrei un sogno dietro le sbarre, se posso dirtelo, non perché sono dietro le sbarre, ma perché mi piacerebbe tantissimo portarti, quando questa pandemia sarà finita, alla Dozza a fare un laboratorio di radio, TV insieme e finalmente portare le loro voci su questi microfoni, perché io e Ignazio un po' ci sostituiamo, ma sono importanti le loro voci, quindi io spero tantissimo di portarti con noi, è un sogno che ho e lo dico, ne approfitto per dirlo ora a Eduradio e chiedendoti anche di dedicare a tutti loro che ci ascoltano un brano musicale per chiudere la nostra settimana. Ecco, io per chiudere la settimana sceglierei a questo punto un brano un po', diciamo così, atipico. È un brano dei Black Pumas che si chiama Colors. I Black Pumas sono un duo funk e soul statunitense. E mi ha colpito perché hanno un suono molto caldo eppure quasi psichedelico, un suono che mi riporta appunto ai miei anni 70, quando ero giovane e simpatico, adesso invece... Allora, Colors però esplora la diversità naturale e colorata che si trova in ogni momento della nostra vita. È scritta su un tetto del New Mexico in un clima di forte divisione razziale. Parla di immortalità e di fratellanza, intanto invita a fermarsi ed ammirare la bellezza lanciando un invito alla unità. Mi sembra un messaggio che va bene per chiudere, io però lo dedicherei anche e soprattutto a Sylvie, che è una delle detenute che stava all'interno di Bollate, adesso per fortuna uscita e libera, però era stata messa in cella con alcune sue compagne rom. All'inizio lei ha storto la bocca, lei che è nera nera nera, che viene dall'Etiopia, anche se parla un perfetto toscano perché è nata a Firenze, si è scoperta razzista, lei afroamericana, nei confronti delle zingare, ha detto ma loro puzzano, ha detto ma loro rubano. Dopo 4 mesi in cella con loro ha dovuto dire sono una stupida, mi hanno insegnato addirittura a usare la candeggina in cella, mi hanno insegnato la solidarietà. Ecco, direi che questo brano Colors rappresenta un po' questa idea di unità che viene da tutti, da tutto il mondo di cui ci parla Padre Ignazio, il mondo intero. Grazie, e grazie a tutti voi e a tutti loro che ci voi che ci ascoltate. Gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' Eccovi, bentornati su Liberi Dentro. Oggi siamo con un ospite nuovo che io però conosco già da un po' di tempo, e tu sei Giampiero Marra. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Benvenuto sulla nostra trasmissione che parla tra la città e il carcere. Tu per molti anni, dal 2006, sei stato volontario del carcere della Dossa e organizzatore di un concorso ad ampia partecipazione Parole in Libertà, quindi un progetto sostenuto anche grazie alla promozione da parte della Coppa Alleanza 3.0. Nel 2019 c'è stata l'ottava edizione di questo concorso, poi nel 2020, per i motivi che tutti sappiamo, si è dovuto sospendere, poi chissà, adesso nel 2021 forse possiamo rilanciarlo. Siccome tutti ti vogliamo conoscere, non sì, soltanto io, e ti chiedo come è iniziato il volontariato in carcere nel 2006 e che cosa ti ha spinto a farlo. Ma guarda, è iniziato dopo che sono andato in pensione, con l'inizio del nuovo secolo, del nuovo millennio, ho avuto voglia di fare qualcosa appunto anche un po' per gli altri, e mi sono associato a un'iniziativa della COP, allora era la COP Adriatica, che si chiamava Ausilio Cultura, come c'era Asilio Spesa, portare la spesa a casa delle persone che non possono muoversi, altrettanto c'era per quanto riguarda i libri. Le portavamo a casa delle persone i libri presi dalle biblioteche comunali, da Sala Borsa o dalle altre biblioteche. E poi a un certo punto ci siamo accorti che tra le persone che non riescono, per vari motivi, ad andare nelle biblioteche comunali a scegliere i libri, ci sono ovviamente anche i detenuti. E quindi insieme degli amici di Sala Borsa abbiamo cominciato un dialogo con la direzione del carcere della Dossa per riuscire a portare, a fare una convenzione. È stata abbastanza complicata perché ci sono dei problemi burocratici, i libri che arrivavano dovevano essere tutti controllati, visti a uno, certi libri non potevano entrare e così via. Comunque è nata così, attraverso un'iniziativa che parlava di lettura. E poi abbiamo fatto un'iniziativa particolare un anno, nel 2005, se ben ricordo, a cui partecipò anche Carlo Lucarelli e Valerio Varesi. Uh-huh. E un'iniziativa, una manifestazione per i detenuti dentro alla sala cinema, in cui Lucarelli in particolare ha letto dei brani di... Bunker, che era uno scrittore americano che ha passato metà della sua vita tra riformatorio e carcere, poi è uscito, è diventato sceneggiatore di Quentin Tarantino, eccetera, e ha letto alcuni brani del suo romanzo autobiografico. E ho notato una particolare attenzione da parte dei detenuti, perché parlava dei loro problemi. Quindi dopo, successivamente, parlando con loro, ho scoperto che molti scrivono qualcosa, e allora mi è venuta la voglia proprio di incoraggiarli a fare questo, perché in fondo la lettura ci fa scoprire la bellezza, la conoscenza, ci fa la consapevolezza, ci fa confrontare con altre vite, con altre esperienze. Per i detenuti poi è particolarmente importante, perché proprio questo discorso di altre esperienze, di altre vite, è un po' un'evasione. Per loro leggere è veramente evadere. E allora ci poi dopo il secondo passo è la scrittura, manifestare. E all'inizio ho trovato molta reticenza, perché sono tutti piuttosto gelosi, non vogliono dei propri sentimenti, delle proprie storie, dei propri racconti. E poi invece la cosa è andata avanti e ho cercato di impostare, non fare il solito concorso di scrittura, come ce ne sono alcuni, anche ce ne sono almeno una decina in Italia, specializzati, dedicati proprio alla gente, ai detenuti, ma dare modo, incentivare tutti a parlare, a scrivere, a esprimersi, a buttare fuori i propri sentimenti, le proprie passioni, le proprie speranze, la rabbia anche, e avere il coraggio anche di comunicarlo agli altri e quindi di condividere anche con gli altri. E quindi non ci sono premi particolari, non c'è un premio. Io non ho voluto fare un concorso, ma una manifestazione di scrittura. E una volta l'anno raccogliamo questi testi, vengono letti. Ecco, qui tutti non si possono leggere perché magari sono qualche centinaio, e li scelgo, ma li scelgo in maniera un po' da, in modo da rappresentare tutte le varie sezioni che ci sono dentro al carcere, quelli del penale, quelli del femminile, quelli della sezione giudiziaria, anche quelli di alta sicurezza, di scegliere poi anche un po' poesie, un po' brani, eccetera, di tutti quelli che scrivono io dico qualcosa, li presento, li chiamo, viene dato un premio che è uguale per tutti, ed è il premio offerto appunto dalla COP, adesso COP 3.0, e quindi ecco, e quelli che mi sembrano più significativi chiedo a loro di leggerli. Grazie Giampiero, dobbiamo lanciare un brano musicale e ti chiedo cosa dedicare a chi ci ascolta ora in carcere, ma anche nella città. Perfetto. Cosa lanciamo? Volare, mi sembra più adatto. Evadiamo. Evadiamo. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Oh. Cantare. Oh. Nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Siamo di nuovo col nostro Giampiero Marro per parlare di letture all'interno del carcere. Se ogni tanto sentite dei lavori, stanno facendo i lavori in casa mia, quindi ci sono anche queste novità, ecco, nel programma. Quindi, Giampiero, ti chiedo, in cosa consiste questa manifestazione di scrittura Parole in Libertà? Ecco, consiste nel cercare di motivare tutti i detenuti a esprimersi, a mettere per iscritto, a riflettere un po' sulla loro situazione, esprimere i loro sentimenti, la rabbia, le speranze, i sogni che hanno. E cerco di tenere tutti allo stesso livello, che nessuno si senta escluso. Non stiamo cercando dei premi Nobel, stiamo cercando solo di facilitare la gente a esprimersi, e quindi io cerco di leggere il più possibile e di scegliere tra le varie sezioni del carcere e anche tra i vari tipi di testi. C'è sempre, abbiamo, negli ultimi anni abbiamo anche Bergonzoni, Alessandro Bergonzoni, che partecipa con molto piacere ed è il nostro ospite d'onore. E sarà molto trascinante, immagino. Molto, molto, molto trascinante. E ti chiedo, mi sono molto curiosa di sapere qualche testo che ti ha colpito. Sì, guarda, allora vorrei cominciare con un testo piuttosto lieve di una donna, di una detenuta che ha scritto, un po' riflessione sulla vita, un giorno bello, un giorno brutto, un giorno normale. Questo è il titolo. Un giorno ho imparato a pattinare, un giorno mi sono sposata, un giorno dopo il lavoro ho bevuto un caffè con Ivana, un giorno ho applaudito mio figlio allo stadio, un giorno ho dovuto lasciare mio figlio. Aspetto un giorno normale, quando uscirò a camminare libera per la strada. Sarà un giorno di pioggia e di sole. Molto bello. Ancora un altro, dai. Un altro, senz'altro, molto volentieri. Ecco, questo è tutt'altro genere. Il titolo è Rabbia. La rabbia è come un serpente, striscia, si insinua nelle viscere, in ogni parte del tuo essere. Rabbia contro noi stessi, contro i nostri errori, contro chi ci ha privati della nostra vita, chi ci giudica, chi non ci capisce. La rabbia che talvolta esplode, furente, che fedele ci accompagna, ci divora, ci uccide. Ma col tempo, con la nostra forza, se noi lo vogliamo, lentamente ci abbandona, come marea che si ritira e ci lascia finalmente liberi. Il tema della libertà, come vedi, è pervasivo. Noi abbiamo provato adesso con lockdown cosa vuol dire rinunciare alla libertà. Immaginate vivere in due, dentro una cella di 9 metri quadri, grigia, sempre quella, senza possibilità di muoversi. Se c'è tempo leggo ancora qualcos'altro. Una cosa brevissima, l'ascoltiamo. Sì, allora, dalla finestra, è la vita che è del carcerato. Mentre ti canti un ritornello che spezzi quei silenzi, guardi il cielo, quell'unico pezzo di cielo che ti è concesso di vedere, quel pezzo di cielo che vedi ogni dì, ma oggi guardi e vi passa una nuvola. La nuvola, la tua compagnia. I suoi contorni non sono mai uguali. Ad ogni suo movimento ti regalo una nuova immagine. Ci trovi un viso, un personaggio fantastico, ora la faccia del tuo migliore amico, ma no, è il corpo della donna desiderata. Poi un attimo chiudi gli occhi, li riapri e vedi che è solo una nuvola la tua compagnia. Grazie Giampiero, ora un brano lo lancio io e lancio Portami via di Fabrizio Moro e noi ci rivediamo un'altra volta, di nuovo ospite dentro. Grazie. Ciao, ciao. Portami via quando torna la paura e non so più reagire dai rimorsi degli errori che continuo a fare mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è. E chiudiamo la settimana dei buongiorni di Liberi Dentro con le parole per l'appunto di Giampiero Marra, volontario che porta in carcere da anni Parole e Libertà, chissà se riusciremo a rifarlo con voi. E ci salutiamo, vi ridò appuntamento questo pomeriggio alle 17 con Teatro con i Cantieri Meticci, poi ricordatevi che c'è al sabato la cappellania coi gruppi del Vangelo, il Teatro del Pratello, la domenica la rubrica di cucina a cura del FOMAL, le note libere con Maria Chiara Gallo e il Teatro dell'Argine. Scriveteci, l'indirizzo postale è sempre via San Mammolo 2 40 136 Bologna oppure la posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Buon fine settimana a tutti e noi ci rivediamo sempre qui lunedì prossimo 9 sulla radio, 10:30 su Teletricolore. Buona giornata.